already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Hello, this is Adam Hobesch calling from Campaign for Change. I live in Charles City, Iowa, and like you, I've been getting sleazy phone calls and mail from John McCain and his supporters. Ecco, se ne avete letto e volevate sapere, assaporare, capire come suona una robocall, questa è una robocall, per la precisione una robocall pro Obama. Se poi arriva un momento nella corsa elettorale, nella campagna elettorale, in cui entrano in circolazione le robocall anti-robocall, che è esattamente quello che sta succedendo adesso, in pratica delle telefonate fatte dai computer a cui non potete resistere se non sbattendo giù la cornetta, che vengono prodotte per parlar male delle altre telefonate dell'altra parte, sempre via computer, in cui vi dicono, in cui vi parlano male dell'avversario, beh, il segnale è ancora più chiaro, è decisamente ora di andare a votare. Tant'è vero che mancano 10 giorni e spiccioli all'appuntamento elettorale. Questo è il penultimo weekend. L'aria si fa al tempo stesso più serena, ma naturalmente anche più arroventata a seconda di come la si guarda. La campagna elettorale è stata talmente infinita che alcuni di noi, mi ci metto pure io, teme di doverne sentire la mancanza nelle prossime settimane. Però, essendo appunto la vigilia del weekend, ci sembra il caso di fare un po' il punto della situazione e di porre un paio di domande a chi è vicinissimo al centro degli eventi, ovvero Mario Platero, il corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che saluto. Ciao Mario. Buongiorno, buongiorno Emiliano, eccoci. No, sono Stefano. Stefano, scusa, eccoci, vedi, qui ormai l'atmosfera è talmente arroventata, ti dirò che per me è più arroventata che serena. Senti un po', io proprio di questo ti volevo far parlare inizialmente, ovvero una domanda che secondo me è vero che c'è, come dice il film di Mazzacurati, la giusta distanza, no, che il reporter deve tenere dalla notizia e via dicendo per essere obiettivo e quant'altro, ma caro Mario, tu sei un po' emozionato a questo punto delle cose? Beh, direi più che emozionato, arroventato, sottolineo termine che hai usato tu prima, perché è stata una corsa senza fine, perché ci rendiamo conto che l'America è un bivio davvero fondamentale. Questa crisi non è una crisi, parlo della crisi economica naturalmente, certo. Non è una cosa da poco, è una cosa che avrà bisogno di essere gestita per i prossimi anni. Chi sarà la Casa Bianca dovrà avere tutta la gravitas necessaria non solo per rimettere in sesto le cose dal punto di vista economico, ma anche per restituire agli Stati Uniti quell'autorità, quell'autorevolezza, quel punto di riferimento che ha sempre avuto per gli equilibri mondiali e che oggi sembra piano piano svanire. Dunque siamo davvero a un bivio, e un bivio che ti dirò, questa è una mia osservazione personale, giornalistica naturalmente, ma personale, ma dovendo osservare i fatti, mi sembra che in questa situazione così più drammatica, critica, difficile in cui si trova il Paese, quindi una situazione che ha bisogno di risposte serie, drammatiche e profonde, abbiamo una scelta netta fra i due candidati, e cioè Barack Obama, che cerca di interpretare il ruolo del futuro presidente, che si occuperà con una certa serietà e profondità di vedute di quello che sta capitando, e invece John McCain, che sta cercando di ricorrere un po' a degli stratagemmi, si occupa un po' meno di quello che sta capitando attorno a noi ed è partito all'attacco violento, feroce. Tu ricordavi le robocall, ebbene le robocall sono soltanto l'ultimo episodio di una serie di tattiche molto aggressive ma anche un po' superficiali che ha adottato McCain per cercare di riconquistare quelle posizioni che ha perduto un po' dappertutto negli Stati americani. L'ultimo nell'Ohio, che è lo stato senza il quale nessun repubblicano ha mai vinto la Casa Bianca. Senti Mario, c'è un versante dell'osservazione, dell'analisi di queste giornate elettorali, diciamo vicino alle posizioni democratiche, oppure semplicemente neutrale ma attento alle dinamiche in corso, che sostiene che l'ottimismo democratico deve essere sempre molto, molto guardingo, perché come ha scritto per esempio Michael Barone in un articolo di ieri, in realtà per esempio gli americani, contrariamente ai messicani e ai russi, diceva lui, rispondono solo al 50% agli exit poll, e se lo fanno è perché sono molto entusiasti di un candidato, e in questo caso capiamo di chi si può parlare. Insomma, che dei sondaggi bisogna fidarsi ma prenderli con le molle, che se per caso la Pennsylvania facesse uno strano atteggiamento di volta gabbana all'ultima ora, le cose potrebbero assumere dimensioni di un effetto domino. Insomma, è come se da una parte ci sia un po' di superstizione e dall'altra ci sia un timore strisciante che un po' l'effetto razza di cui non si riesce a capire la portata, un po' appunto la sincerità degli exit poll e la loro attendibilità, guarda questo esito elettorale con molta prudenza, al di là invece dello stesso staff di Obama, che bene o male sta autorizzando la costruzione dell'allestimento del parco di Chicago per la grande festa. Sì, assolutamente. Beh, dunque, un paio di osservazioni. Michael Barone, preparatissimo, straordinariamente intelligente, simpatico e orientato, diciamo, e simpatizzante più del movimento conservatore, quindi il suo pensiero in qualche modo cerca, se vuoi, di tirare acqua a un mulino piuttosto che a un altro. Mm-hmm. Da un punto di vista tecnico, tu hai assolutamente ragione, le elezioni non sono decise fino a quando non abbiamo contato l'ultimo voto, e mai come ora lo saranno. Per questo l'atmosfera è arroventata, perché non si sa nulla in realtà. Noi oggi possiamo basare la nostra analisi sulla base di dati statistici, sulla base di rilevazioni locali, per esempio il fatto che Barack Obama si trovi in vantaggio mediamente di 6 punti percentuali nazionale, sul fatto che si trovi in vantaggio almeno in 4 stati abbastanza importanti, Iowa, New Mexico, Colorado e Nevada, che è sempre stato uno stato, direi, repubblicano, conta poco perché ha pochissimi, mi pare 3 voti elettorali, ma resta pur sempre un segnale. L'idea dunque è, con questi stati soltanto e anche senza l'Ohio, Barack Obama potrebbe farcela. Se aggiungiamo la Florida, ecco che Barack Obama va ben al di sopra dei 270 voti elettorali. Questo per dire che cosa? Che per quanto i sondaggi effettivamente possano essere così inquinati, poco attendibili, non necessariamente riflettere una risposta completa dell'opinione pubblica americana, ebbene, però sono anche un po' l'unica cosa che abbiamo, e quindi l'atmosfera dal punto di vista tecnico è un'atmosfera che ci dice che oggi Barack Obama resta avanti. Oggi, a 10 giorni dalle elezioni, cosa può succedere da qui ai prossimi 10 giorni? Beh, o Barack Obama farà un grande passo falso, cosa che non è nella sua personalità, è un uomo molto disciplinato, molto ordinato, lo abbiamo visto molto controllato sempre nei dibattiti, non ha mai risposto a una provocazione, e mi riferisco non soltanto ai suoi incontri, scontri con John McCain, ma anche a quelli precedenti con Hillary Clinton, e lì c'è una scelta molto interessante di fondo, di cui parlavo con alcuni colleghi qualche giorno fa, e cioè il fatto che Barack Obama da sempre si è imposto di essere calmo per non suscitare nell'uomo bianco il sospetto che emerge nel momento in cui vede un uomo di colore arrabbiato, certo, un uomo di colore provocatorio, un uomo di colore che, fra virgolette, alza la testa. Quindi è un risvolto molto interessante questo, ma che ha comunque dato questa straordinaria disciplina a Barack Obama, e presumo che la terrà fino alla fine. Chi sta dimostrando nervosismo invece è John McCain, che così ricorre, come dicevo, a questi mezzi così sotto la cintura. Le robocall di McCain hanno già avuto un effetto boomerang, certo. C'è stata questa deputata repubblicana, Rachel del Minnesota, che ha dovuto chiedere scusa perché, stretta alle corde per difendere queste robocall, alla fine addirittura si è lanciata a dire che ci sono molti in congresso che sono anti-americani e che Obama per primo è anti-americano, ha dovuto chiedere scusa. Questo è un boomerang per McCain. Ultima cosa, Mario, è uscito l'editoriale di supporto ufficiale del New York Times, mi sembra estremamente, a Barack Obama naturalmente, estremamente sbilanciato, estremamente chiaro, insomma un desk degli editorialisti, un comitato centrale che ha preso posizione in un modo nettissimo, anche se è pur vero che a New York non credo che Obama perda molti voti, non so come dire, è un po' parlare di corda in casa rimpiccato. Però la presa di posizione è stata molto decisa. È stata sicuramente decisa, certamente New York non fa testo perché sappiamo qual è l'orientamento della maggioranza e quindi potevamo aspettarci che il New York Times facesse un endorsement, appoggiasse Barack Obama. Quello che mi ha colpito di più è che lo abbiano fatto anche prima il Chicago Tribune e il Los Angeles Times, giornali che tradizionalmente invece appoggiano candidati repubblicani. Ecco, l'atmosfera di fondo è quella, i due candidati ormai sono schierati davvero su posizioni molto diverse, non c'è da confondersi, o si vota da una parte per certe ragioni o si vota dall'altra per certe ragioni, non ci sono sovrapposizioni eccessive nelle loro piattaforme, nella loro filosofia. Ecco, in tutto questo, per chiudere e per tornare a quello che tu dicevi prima, l'incertezza c'è sempre e ti dirò che mi ha colpito questa mattina chiacchierando con una persona molto informata che segue la politica e l'economia molto da vicino. Ebbene, questa persona mi ha detto che lui è convinto che alla fine vincerà McCain e che il paese non è pronto. Io, sulla base delle mie statistiche di cui parlavamo prima, sostenevo il contrario, però mi ha colpito che questa persona prendesse una posizione così, direi, sicura, quindi anche questo mi incuriosisce. Certo. Dovrò fare una telefonata in più quando abbiamo avuto risultati elettorali. Grazie Mario, buon weekend, naturalmente ci sentiremo spesso la settimana prossima per seguire il rush finale. Ma a proposito di New York Times, a proposito di endorsement ufficiale, è un lungo articolo, molto molto motivato, molto circostanziato, quello applicato, quello presentato dal quotidiano della Grande Mela, in cui viene giustificato l'appoggio a Barack Obama con tutta una serie di ragioni, tutta una serie di motivazioni e tutta una serie di ragioni e motivazioni che si oppongono invece a una eventuale vittoria di John McCain. Ma proviamo ad ascoltare almeno l'attacco del pezzo. L'iperbole è moneta corrente nelle campagne presidenziali, ma questa volta il futuro della nazione davvero è in bilico. Gli Stati Uniti sono malmessi e alla deriva dopo 8 anni di fallimentare leadership di George W. Bush. Egli lascia in eredità al suo successore 2 guerre, un'immagine planetaria offuscata e un governo che sistematicamente ha tradito il proprio mandato di aiutare e proteggere i cittadini, fosse nel caso di un uragano che provoca inondazioni, di promulgare un'assistenza sanitaria degna di questo nome, di difendere la propria casa, il lavoro, i risparmi o le pensioni nel cuore di una crisi finanziaria che era annunciata e prevedibile. Visto la difficoltà dei tempi, la scelta di un nuovo presidente è facile. Dopo quasi 2 anni di turbolenta e dura campagna elettorale, il senatore Barack Obama dell'Illinois ha provato di essere la scelta giusta per occupare il posto di 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America. È una conferma di quello che ci ha raccontato Platero ora da New York. Arriva anche se solo si mettono a confronto, per esempio, le storie raccontate, i numeri offerti dalle agenzie e quelli offerti dalla televisione. Basta prendere la Florida, lo stato della Florida, uno degli stati chiave, uno degli stati tutto da vedere a chi possa essere assegnato. È appena uscito su Fox News un sondaggio che dà 7 punti di vantaggio a Barack Obama, che sarebbe un risultato straordinario, i democratici che vincono di 7 punti la Florida, ma questo è un sondaggio Rasmussen. Poi si vanno a leggere le agenzie ed esce per esempio una agenzia che dà una rilevazione di The Politico, il sito web di informazione politica americana, che peraltro con trasparenti simpatie democratiche, che dà soltanto un punto punto per Obama, e dice: McCain sta investendo tempo e risorse in Florida nella speranza di trasformare lo Stato in una trincea contro l'avanzata di Obama. Il discorso che faceva Mario poco fa è perfettamente credibile. Si tratta veramente di punto di osservazione, si tratta veramente di spostarsi lungo un'immaginaria linea e guardare, no, questo punto di luce che sono le elezioni del 4 novembre, e le cose si vedono diversamente. Da certi punti di vista sembrano chiarissime determinate dinamiche, ci si sposta e si vedono altre cose, si ascoltano altre cose. Naturalmente la conclusione è più semplice, anche così più rassegnata, è che tutto sommato fra 10 giorni lo sappiamo. Pagina. E allora pigliamo una boccata di respiro, insomma, da questo rush elettorale che si suppone la settimana prossima, che ci terrà veramente incollati ai computer, alle televisioni, soprattutto per capire, per orientarci, e andiamo a orientarci sulle tracce invece del nostro nuovo eroe a Oriente, no? Il primo ministro Silvio Berlusconi, una notte in aereo, una dormita in aereo, un risveglio a Pechino e poi via. L'abbiamo pedinato ieri con Saro Capozzi, ma oggi ne ha fatte altre delle sue, no? E non ce ne siamo scordati. Oggi aveva l'appuntamento più importante, cioè l'inaugurazione dell'ASEM, questa imponente conferenza che riunisce tutti i capi di Stato tra Asia e Europa, quindi c'erano praticamente tutti, la Sarkozy, la Merkel, e Silvio Berlusconi li ha incontrati quasi tutti, perché ha avuto un colloquio con il premier pakistano, poi con quello indiano, ieri aveva anche incontrato Hu Jintao e Wang Jiabao. Insomma, ho sinceramente perso il conto delle cose che è riuscito a fare in un tempo limitatissimo. Oggi si è anche preso una piccola pausa a Piazza Italia, questo mega ristorante che sorge a Pechino, dove ci sono tutte le delizie del nostro Made in Italy, per quel che riguarda perlomeno la cucina. Dice di aver mangiato tramezzini e pizza, ma insomma era anche tentato da spaghetti e tagliatelle, ecco. Però ecco, e poi un mezzo, diciamo che in tutte le cose che è riuscito a fare, una cosa gli è saltata, perché proprio non c'era il tempo, non ci stava con la scaletta del programma. Ha dovuto rinunciare ad una visita alla città proibita, non ha potuto fare questa volta il giro, ma insomma lo farà forse in una prossima missione in Cina, perché ha promesso che i rapporti tra Cina e Italia saranno più intensi. Non so se già nella notte in aereo si dilungherà, insomma, nelle stanze degli imperatori cinesi. Allora, lasciamo Berlusconi, ma penso che lo ritroveremo tra pochi minuti con Luca Vinciguerra in diretta da Pechino. Questa è una di quelle notizie che mi piace sempre dare, perché quando viene aperta una linea rossa tra due stati mi emoziono, ritorno così ai tempi della guerra fredda. Cioè, questa... ti piace l'idea di linea rossa? No, mi piace l'idea del telefono col bottone sopra. No, anche perché poi è significativo, perché in questo caso questa linea speciale viene attivata da Giappone e Cina, quindi grandi avversari, grandi rivali, fino praticamente a ieri. Oggi sembra che i rapporti siano distesi, lo hanno promesso Hu Jintao e il primo ministro giapponese Taro Aso, e poi si legge in una nota congiunta che questa linea telefonica diretta d'urgenza tra Tokyo e Pechino verrà utilizzata per incrementare la fiducia bilaterale. Insomma, si procederà però anche con discrezione, quindi insomma, ma non comunque già il fatto che parlino, beh, diciamo che è il segno dei tempi, forse questa crisi che aleggia anche sui cieli asiatici può riavvicinare in qualche modo anche Cina e Giappone. un po' di vostri messaggi, c'è molto scetticismo sugli exit poll, forse memori anche insomma degli ultimi andamenti italiani, qualche scopola che non sono stati presa. Proprio dei successi, e c'è, mi sembra, molta attesa. Ci scrive Giancarlo Avarese, ci segue dalla prima puntata e dice un po' di emozione la provo anch'io alla fine, insomma, la questione, il fatto che questa elezione non sia come tante altre ma abbia un sapore e dei significati tutti particolari. Ma rispostiamoci negli Stati Uniti, rispostiamoci nei dintorni della corsa e vediamo alcune cose che stanno succedendo. McCain campaign volunteer says she was robbed and then roughed up by a man who apparently did not like her politics. Allora, vi ho raccontato che c'è uno stato, che è quello della Pennsylvania, dove le cose sono più complicate di quanto possa sembrare a prima vista. E guarda caso, stanotte, proprio in Pennsylvania, ieri sera, è successa una storia strana, una storia di quelle che possono essere poi gonfiate a dismisura dai media e dagli staff elettorali se si decide di scommetterci sopra tempo e quattrini. Protagonista una giovane ragazza, una ventenne, che si chiama Ashley Todd del Texas, una sostenitrice di McCain, che aveva deciso di andare a passare qualche settimana in Pennsylvania per fare campagna elettorale in favore del candidato in questo stato ancora in bilico. Ebbene, ieri sera è andata a prendere qualche spicciolo al bancomat ed è stata assaltata e derubata. Da chi è stata assaltata e derubata Ashley? Da quello che lei ha descritto come un gigantesco uomo nero che le avrebbe tolto i soldi, se ne stava andando, ma poi il gigantesco uomo nero avrebbe visto un adesivo sulla macchina di Ashley, un adesivo pro McCain, e a quel punto il gigantesco uomo nero sarebbe tornato indietro e con uno strumento acuminato, la polizia non va oltre, tra l'altro la polizia ha fatto delle indagini piuttosto veloci sulla questione, con questo oggetto acuminato avrebbe inciso sulla guancia paffuta di Ashley la lettera B. Quella che i giornali, dopo averci pensato un'oretta, si è alzato un redattore di quarta fascia, ha detto: direttore, la lettera scarlatta. Ecco, ci risiamo con la lettera scarlatta. I nostri lettori colti, quelli che leggono i romanzi, sanno che cos'è la lettera scarlatta. È il simbolo dell'infamia, un simbolo dell'infamia scritto con la lettera B. B come? Emiliano, B come? Insomma, ci vuole poco. No, io ho una soluzione, invece ho una soluzione alternativa. B come Biden. È vero, è vero. Insomma, B come Barack, naturalmente, no? E se è B come Barack, questa storia, che chissà poi, insomma, esattamente nei reali termini, come si è svolta, può diventare una storia come Joe the Plumber, no? Il sintomo di una società che si sente scossa, che non è sicura, che provoca comportamenti eccessivi, disequilibri razziali. La Pennsylvania è un ago della bilancia di questa elezione, la storia che vi abbiamo raccontato. Vedremo se fa plonk, no? E finisce in nulla, oppure se monta come la panna. Grant Park sits in the heart of Chicago's lakefront, and this park is going to be the heart of Senator Barack Obama's election night party. Dall'altra parte, dunque, hanno questo strano atteggiamento. Un po' fanno finta di niente, dicono no, per carità, non se ne parli neanche, ma quale vittoria, ma che vittoria, ma 12, 13, 18 punti, non vogliamo sapere niente, aspettiamo e vediamo, e secondo me fanno bene. Barack Obama al concerto di Springsteen è andato sul palco e ha detto: beh, noi democratici siamo famosi per le cacchiate. E quindi, come dire, calma e gesso, vediamo che succede. Però di fatto i falegnami lì al Grand Park vanno avanti. Tra l'altro il sindaco di Chicago ha staccato anche la fatturina, ha detto $2 milioni per una seratina al parco, prego pagare alla cassa. Per questo poi sono stati tassati giornalisti e postazioni televisive, tutto il tran tran lì va avanti. Io mi domando solo, se vince McCain, che cosa succede in quel parco? che fanno suicidi di massa, una veglia, forse la veglia, con la veglia forse io non so, qualche io, soldo io ho un ricordo delle elezioni del 2006 qui in Italia, dove la vittoria di Prodi era data per certa e per netta, poi il risultato fu naturalmente in bilico per giorni e giorni, e ci fu una transumanza di giornalisti dalla sede dell'Ulivo a Palazzo Grazioli, che erano tutti preparati per un evento che poi in realtà non si è svolto in questi termini. Beh, mettiamo così, festa o veglia. Say the difference between a hockey mom and a pit bull. Lipstick. But turning a hockey mom into È venerdì, questa è la nostra notizia preferita, la polemica attorno ai 150, 170, 200 mila dollarucci che Sarah Palin ha speso per rifarsi il look. Ieri il look stato... è cambiato però. Il look è cambiato, Sarah Palin è diventata effettivamente insomma notevole, e ieri c'è stato così uno scatenamento al congresso, sui giornali, dire no, ma che vergogna, il paese è in crisi e questa va a spendere i soldi. Oggi però c'è il, come dire, il ritorno di fiamme, c'è la risposta piccata di chi se non degli stilisti. Non guardano per il sottile, un po' tutti si allineano a dire che Sara ha fatto benissimo. Abbiamo dichiarazioni di Lauren Rotman, stilista di Washington, mai sentito nominare, poi dell'agenzia Style Auteur, sempre di Washington, e poi di tale Betsy Fisher, proprietaria di un negozio molto fashion a Dupont Circle, piazza stilisti italiani non hanno parlato di Washington. Stilisti italiani, secondo me, sullo stile della Pali però insomma dicono, in sostanza è arrivata come governatrice dell'Alaska, aveva il look da governatrice dell'Alaska, scusate se si è data una ripulita, del resto non è tutti i giorni che ti offrono di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, per favore perdoniamola, anche perché lei in fondo, anche un po' scocciata forse, ha detto che tutti questi meravigliosi vestiti comprati nel famoso shopping da Neiman e Marcus, finita la campagna, li dà in beneficenza. You look at me, oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Dunque, è uscito su WorldNet Daily un articolo molto interessante, con una firma, se volete, anche un po' compromettente, quella di Pat Buchanan, uno dei proprio padri del conservatorismo americano, intriso anche di religioni, fondamentalismo, però un uomo intelligente, un uomo acuto, spesso un provocatore che fa centro. Beh, vi garantisco che ha scritto un articolone con una idea molto semplice, che forse potremmo anche riferire a cose di casa nostra, no? Avete presente le famose polemiche sul cinese picchiato, imborgato a Roma e quant'altro, e certe domande vengono fatte in queste occasioni. Beh, qui la domanda che pone Pat Buchanan è esattamente questa: se al Saturday Night Live, lo show comico satirico del sabato sera in America, invece che prendere selvaggiamente, pesantemente, in modo molto divertente, in giro Sarah Palin, avessero preso selvaggiamente, pesantemente, in modo molto divertente, in giro Michelle Obama, la signora Obama, naturalmente afroamericana come almeno al 50% il suo consorte, che sarebbe successo? Ci sarebbero stati disordini razziali nel paese? Si sarebbero sollevate le carovane? È un interrogativo interessante, magari ve lo giro, fatemi sapere che ne pensate. Luca Vinci Guerra, il corrispondente della Cina del Sole 24 Ore, penso mobilitato assai in queste ore, perché Berlusconi è in giro per, che dico, la Cina, per l'intero Oriente, e da quello che ci ha raccontato Emiliano si fatica a corrergli dietro per quante cose fa. Me lo confermi, Luca? Sì, guarda, è finita la conferenza stampa proprio 5 minuti fa, qui ormai sono le 10:30 di sera, e appunto Berlusconi, ci siamo congelati 5 minuti fa, ci ha raccontato una giornata molto intensa, ha incontrato praticamente tutti i capi di Stato dei paesi asiatici, da quello giapponese, quelli cinesi, quello indonesiano, quello indiano e persino quello pakistano, proprio in chiusura. Quindi è stata una giornata, lui ha detto appunto, molto intensa e molto proficua, sono tutte persone che lui vorrebbe coinvolgere appunto in un progetto di appunto di G8 allargato, di G+, come l'ho chiamato, e quindi appunto sì, sicuramente sono giornate molto molto impegnative. Oggi peraltro qui l'Asia, i paesi asiatici hanno varato un fondo di sostegno all'economia contro la crisi da 80 miliardi di dollari, quindi diciamo che il piatto è ricco. Senti, ma che tipo di accoglienza, che tipo di trattamento, sia mediatico ma anche insomma in questi, nell'atmosfera che regna in questi vertici, riceve il nostro primo ministro? Tanto per cominciare, è ormai una assodata personalità di livello internazionale, a livello mondiale, e come ne senti parlare magari anche dei tuoi colleghi stranieri? I cinesi non hanno una conoscenza così approfondita. Sì, ovviamente. Io penso che Berlusconi qui sia molto famoso anche come presidente del Milan, perché ovviamente i cinesi sono dei grandi appassionati di calcio. Dici che è più famoso il Milan di Berlusconi? Beh, insomma, questo è facile, ma questo probabilmente anche in Indonesia, no? Okay. Se prendiamo anche i paesi asiatici, tutti vanno pazzi per il calcio, sicuramente sì. Il Milan, come altre squadre italiane, insomma, sono dei grossi veicoli promozionali, che anzi forse vengono usati anche poco, devo dire, per il potenziale che hanno. Certo. Quindi, però insomma, diciamo che Berlusconi ha ripristinato un rapporto con la Cina, paese che lui, per sua stessa missione, non ha mai amato tanto, insomma. Ecco, ricordo quando venne la prima volta da presidente dell'Unione Europea, fu appunto penso fosse la prima volta che veniva in Cina, una visita abbastanza sofferta per lui. Questa volta è avuto un grande entusiasmo, ha visto che lo ha ripetuto proprio anche nella conferenza stampa stasera, che po' di mercato potenziale c'è qua, ha visto a quale velocità procedono le cose in questo paese, in Cina e in tutta l'Asia, devo dire. Quindi credo che sia stato un po', diciamo, un nuovo amore, ecco, per Berlusconi. Fra l'altro ha detto che proprio per portare a termine questo progetto del G14 che lui vuole presiedere l'anno prossimo, ha già detto che tra gennaio e febbraio ritornerà in Cina proprio per ovviamente coordinare col governo di Pechino la partecipazione della Cina a questo G8 allargato dell'anno prossimo alla Maddalena. Luca, posso immaginare che anche l'evento a cui hai partecipato sia stato influenzato, no, da queste informazioni che arrivano da Tokyo, dalla Borsa di Tokyo in particolare, e non solo naturalmente, che avranno, come dire, gettato una certa atmosfera di condivisa preoccupazione, no? È così? Sì, anche se ormai a fronte di cali quotidiani, come se un po' la gente ci avesse fatto abituando. Qualche callo, devo dire. Ci stiamo quasi abituando, sì. Certo, per l'Asia è una situazione un po' diversa, nel senso che fino a qualche settimana fa questa grande crisi finanziaria veniva vissuta come una crisi di altri. Certo, ovviamente anche le borse orientali avevano perso parecchio terreno. Ma adesso i tracolli di questi ultimi giorni dimostrano che l'Asia ha paura adesso del contagio inevitabile che la crisi finanziaria avrà sull'economia reale. Il contagio dell'economia reale significa che le aziende giapponesi, che peraltro stanno pagando uno yen che si è rivalutato terribilmente nelle ultime settimane, le aziende giapponesi, le aziende cinesi, le aziende coreane venderanno molto di meno sui mercati internazionali, e quindi questo avrà grosse ripercussioni sui conti aziendali di queste aziende, ma anche sui conti, sulla contabilità nazionale dei paesi, dei paesi coinvolti, nel senso che chiaramente calerà l'export, i bilanci commerciali si ridurranno, caleranno le riserve valutarie, purtroppo molte aziende saranno costrette a chiudere, qualcuno andrà in bancarotta, le banche resteranno col cerino in mano dei fallimenti e la gente resterà disoccupata, cioè questo è lo scenario che si apre anche qua, anche qua. Grande il disordine sotto il cielo cinese, come diceva un cinese che fece un tempo una lunga marcia. Grazie a Luca Vinciguerra, il corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore, ultimo ospite della settimana di Jefferson Ming. Non abbiamo avuto il tempo di parlarvi di Happy Days, delle connessioni tra Happy Days e le elezioni, roba grossa, se ne parla lunedì. Vi dico soltanto che Fonzi e come si chiama quello con i capelli rossi? E Ricky si sono rincontrati con le parrucche, naturalmente, per parlare di politica, una scena imperdibile. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte, l'indirizzo è jeffersonming@radio24.it. Questa sera alle 9 la replica, la settimana prossima da lunedì come sempre alle 4 le nostre cronache, l'ultima settimana, mancheranno a quel punto 8 giorni alle votazioni per la presidenza, le seguiremo naturalmente nel modo più ravvicinato e attento possibile per tutti voi, sempre qui su Radio 24.